racconti sul tempo, o meglio sui modi con i quali siamo costretti o meno ad applicare la categoria di tempo. È novembre, quasi dicembre, ho rubato una mattinata allo scadenziario della mia vita e sono al mare. C'è il sole e ci sono i gabbiani che mi guardano. Si respira. In maniche di camicia mi permetto perfino di leggere il giornale. Mi godo appieno il momento perché, vabbè, so che è breve e perché lo so rubato alle nebbie, allo smog, agli affanni propri dell'organizzazione civile della vita. Leggiucchio, commento tra me e me, respiro, inclino il volto affinché la carezzino i raggi del sole, la brezza marina, e dopo un po' mi si avvicina una coppia. Sono diciamo quasi anziani, non tanto da stupirsi se lavorassero ancora e non così poco da stupirsi ad incontrarli lì dove passeggia solo chi è ormai espulso dal cosiddetto mondo produttivo. Lui si ferma ad un paio di passi e lei mi si avvicina. Mi si avvicina di più, sorridendo come se ci fosse bisogno di rassicurarmi. E mi scusi, mi chiede, mi scusi, ma sa dirmi che giorno è oggi? Io la guardo e mi dico che no, che non lo so, ma aspetta, adesso che ci penso, un mezzo sicuro per saperlo ce l'ho, ho qui il giornale di oggi e basta guardarci sopra. Così ci guardo e posso risponderle che oggi è il 27, signora. E lei ringrazia e lui si sente in dovere di giustificarne la domanda, perché a questo mondo, vedete, ci sono domande che possono essere rivolte impunemente e altre che vanno giustificate. E fra queste domande, in un mondo in cui i doveri sono spesso associati al calendario, c'è anche quella domanda relativa all'individuazione del giorno che si vive. E questa domanda la giustifica gioiosamente allora dicendomi, sa, qui si perde proprio la nozione del tempo. Io mi atteggio alla solidale comprensione e loro se ne vanno. Auguri ragazzi, vi auguro di non saperlo nemmeno domani che giorno è oggi. Ne racconto un'altra. C'è un bel buco per terra e intorno a quel buco ci sono due operai sudati e impolverati. Arriva uno in bicicletta, già piuttosto anziano, e dà un'occhiata al buco, scuote la testa e disapprova visibilmente. No, così non va ragazzi, troppo rapidi, così non va. Avete fatto troppo la svelta. Sono passato questa mattina, il buco non c'era ancora. Io facevo il vostro stesso mestiere. Almeno cinque giorni. È mezzogiorno e voi avete già finito. Li ho lasciati che discutevano. Ne racconto ancora una, L'altro giorno, così per caso mi è capitato, ho visto in anteprima i prossimi spot pubblicitari della Barilla. Ad un certo momento c'è la Milly Carlucci rivolta agli spettatori, dice: è la nostra pasta, la pasta Barilla, perché è fatta per il tuo uomo, per i tuoi ragazzi. E poi lo sai, allora conclude con un gran sorriso, lo sai, in te c'è una gran cuoca e Barilla la rivela. Tutto qui. Vi chiederete cosa c'entri con il tempo. Beh, il primo episodio, quello dei due anziani che non sanno che giorno è oggi, a me ricorda come la felicità consista anche nella parsimoniosa temporalizzazione dei propri eventi. Una vita orchestrata da agende, orologi sveglia, segreterie computerizzate e palinsesti televisivi è un inferno. Quando ti fermi, ti sembra di non aver vissuto e senti come perdita e privazione tutta quella dignità che credi che ti distingua dal perdigiorno. Il secondo episodio, quello del buco, a me ricorda che non è mai bene giudicare un risultato soltanto in rapporto al tempo che ho corso per ottenerlo. Per esempio, sarebbe opportuno considerare anche gli strumenti usati e il materiale con cui si è avuto a che fare, o più in generale le condizioni al contorno che, in un modo o nell'altro, hanno influenzato il risultato stesso. Il lungo e il breve, il continuo e il discreto, l'eternità e l'attimo sono risultati di nostre operazioni mentali e schemi alternativi che ci siamo apprestati per categorizzare certe cose e certi eventi. Dobbiamo saperne rifiutare la natura impositiva, coercitiva, e invece dobbiamo saperne considerare la natura costruttiva, libera entro i margini che la comunicazione nella società a cui apparteniamo ci consente. Il terzo episodio è quello della Carlucci che dirà dai prossimi teleschermi che in te c'è una gran cuoca e Barilla la rivela, ha molto, molto a che fare con il tempo, semplicemente perché è un evidente falso. Non ho visto alcun spot in anteprima. La Carlucci non so nemmeno chi sia, e la Barilla si guarderà bene dal mettere in giro una pubblicità simile, se non altro perché l'ha già fatto. Si tratta infatti di uno spot di 30 anni fa, quando si chiamavano Caroselli, e l'interprete era Mina Mazzini, la nota cantante italiana con tasse in Svizzera, e diceva proprio cose così: è la nostra pasta, la pasta Barilla. E quel nostra si riferiva non alle cantanti, ma alle donne, all'insieme di tutte le donne cui Mina si rivolgeva ammiccante, e diceva: perché è fatta per il tuo uomo, per i tuoi ragazzi, tutta gente ai lei e ai loro da servire, e in primis proprio in tavola con piatti fumanti. E poi lo sai, come no, in te c'è una gran cuoca e Barilla la rivela. Nel 1992 di gran cuoche nascoste non ce n'è più, e quando anche ci fossero, Barilla si guarderebbe bene dal rivelarle, perché se svelasse un simile segreto presumibilmente non venderebbe più un chilo di pasta. Quel che nei favolosi anni 60, favolosi per chi non c'era e per chi comunque non c'è più, quel che nei favolosi anni 60 costituiva un valore talmente pregnante da impreziosire una comunicazione pubblicitaria, al giorno d'oggi fa pena e perfino un po' schifo. Non c'è più merce che si avvalorerebbe così, e nessun mercato sarebbe in grado di produrla. Per dirla alla svelta, in mezzo sono successe tante cose, o per dirla ancora meno bene, è passato del tempo. Ma il tragico della cosa ovviamente non sta nel compatimento di come eravamo, del ruolo che la nostra società aveva assegnato alla donna e della narrativa di sostegno che innanzitutto come serva la qualificava. Il tragico sta in come siamo adesso. Che cosa garantisce noi tutti che fra 30 anni qualcuno non guarderà alle valorizzazioni attuali con lo stesso orrore con cui noi ci guardiamo indietro? Nulla, assolutamente nulla, perché il tragico vero non sta in questo o in quel valore di cui una data società si avvale per reggersi alla belle meglio cambiando il meno possibile. Il tragico vero sta nel fatto che questo o quel valore ce li troviamo sempre come indipendenti da noi, dati in un mondo irrimediabilmente dato, dettati di cui prendere atto. Il processo intimo e collettivo per il quale questi valori diventano tali ci è stato espropriato da tempo immemorabile, perché tutti noi si diventasse soggetti mercantili pienamente affidabili. Come dire che Barilla è disposta a rivelare qualsiasi cosa, dalla cuoca alla donna in carriera transitando per la femminista arrabbiata, purché quel qualsiasi cosa continui a comprare Barilla. When I get a rhythm. feel it in your bones. Tap on your toes and just get going. Get rhythm.